Mermaid of memory swimming through tragic times. I'm the one that got away. I'm the love. I'm the love I never had. A cipher of butterfly wings. I'm a little girl who had big dreams and prayers in my mother's purse. I'm the color of Saturday bouncing off the walls. I drizzle in the wind like a sun shower shawl. I'm the final hour before the moon rests. I'm what a day looks like, honest and undressed. I'm la cascarilla on the door, windows, and vents. A protector of realms. A protector of realms. I'm a Bwiti shaman who ascends. I'm the mirror. I am the mirror. I am the mirror. I'm the root and the end. I am. I am. I am not that I am. I am and we are. We, you and me. I am. I am because of you. We're here together. There's no me without you. I am. I said there's no me without you. We are. We. Because we are, you and me, we are. Woo! I am. You made me possible. I am. Ooh, I am. I am. I am because we are. Ciao a tutti, questa era Aja Monet che in I Am ci ricorda come sempre che possiamo dire sono solo perché siamo. Io sono Lollo Cat e questa è Club Chimera, programma radio dedicato nel modo più ampio possibile all'ascolto dei suoni, delle persone, degli ambienti, dei movimenti sociali. In queste ultime puntate abbiamo parlato dell'ascolto delle persone e della costruzione di una relazionalità, di una possibilità di stare insieme attraverso il noi. Oggi andiamo un po' all'opposto, perché si può costruire il noi conoscendo l'io e viceversa. E quindi senza mai dimenticarci che c'è sempre un noi che ci circonda, un noi a cui ci rivolgiamo e un noi con cui ci relazioniamo. Oggi parliamo anche e soprattutto dell'ascolto di noi stessi. E lo facciamo con un'artista, attrice, performer, amica, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere in un progetto di ricerca legato alla Triennale di Milano, alla parte di teatro e di arti performative della Triennale di Milano, e l'attrice Anita Pomario. Ciao! Che saluto e ringrazio molto di essere qui. Grazie a te. E partiamo subito con una traccia che ho chiesto semplicemente ad Anita: con che traccia vuoi parlare nel momento in cui raccontiamo chi sei tu, qual è il tuo processo creativo e come attraverso questo processo arrivi a conoscerti e a conoscerci, quindi. E questa traccia è Mother's Nature's Bitch di OK Kaya. Being mother nature. Allora, ho invitato Anita perché è un'artista molto fine, molto con uno sguardo che io trovo molto delicato e pungente allo stesso tempo, e con cui fin dall'inizio mi sono trovato incredibilmente bene, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista artistico, proprio nel parlare e nel condividere l'arte. E Anita da poco prodotto, o è in fase ultima di produzione del suo primo lavoro, di cui arriveremo a parlare, e che è proprio quello che ci fa riflettere su cosa vuol dire, attraverso la creazione, attraverso il processo artistico, andare a indagare, andare a scavare per conoscersi. Prima però vi racconto brevemente, Anita è italiana, ma ha studiato sia a New York che a Londra teatro. Teatro e teatro sperimentale, giusto? Sì. Dove entrambe le città ha debuttato con lavori teatrali. È anche attiva nel cinema, nella televisione, l'abbiamo vista nell'Arte della Gioia. Cioè, io non l'ho vista perché non ho ancora visto la serie, ma quando ho scoperto questa cosa ho detto, oddio, devo... Arte della Gioia, di cui abbiamo parlato molto molto e che abbiamo anche un po' letto nella puntata scorsa. E appunto... Nell'ultimo anno ha vinto il premio Eretici, le strade dei teatri, che si tratta di un bando per artisti under 28, con il suo primo progetto d'autrice, in cui quindi è stata sia regista che performer, che sceneggiatrice, che scenografa, di tutto e di più. Progetto chiamato Notturno 264. Yes. Adesso chiedo ad Anita se ci vuoi raccontare qualcos'altro di più di te, o se vogliamo... a te la parola. E grazie, grazie mille per essere qua. Intanto ciao a tutti e grazie mille a Lorenzo per avermi invitata in questo programma. E la radio è una mia grandissima passione, chi mi conosce lo sa. Ho iniziato ad ascoltare la radio quando vivevo a Londra. Ogni mattina mi serviva qualcosa per sentirmi a casa. E quindi ho iniziato ad ascoltare le radio italiane quando andavo in bici, sempre, tutte le mattine, ed è una roba che mi è rimasta. E io sono Anita, e appunto sono un'attrice performer, e sono tornata in Italia da circa un anno ed è stato bellissimo, perché il primo progetto che ho fatto da quando sono tornata in Italia è stato quello che abbiamo fatto in Triennale insieme, ed è stato veramente straordinario per me, mi ha aiutata moltissimo anche riguardo a questa cosa che dicevi tu prima, dello stare insieme, della condivisione, dell'imparare a al vivere le cose insieme agli altri ma con se stessi. Questa esperienza di FOG secondo me è stata proprio quello. E, sì, io l'anno scorso, nel 2025, esatto, a maggio, ho ricevuto questa chiamata dal cielo che mi diceva appunto che avevo vinto questo bando per artisti under 28, che tra l'altro aprirà domani. E quindi se c'è qualcuno under 28 che vuole applicare a questo bando, che lo faccia. Ricordiamo il nome del bando, Eretici. Eretici. Dove si può trovare? Su internet, sulla Corte Ospitale e l'Arboreto di Mondaino, che sono i due centri di residenza che ospitano queste residenze, si trovano tutte le informazioni. E io avevo iniziato a lavorare a questo progetto, a questa mia idea, circa 2 anni fa. Avevo applicato così, come si fa, come facciamo sempre noi che dobbiamo continuare ad applicare per ricevere soldi pubblici. Se qualcuno vuole dare soldi per Club Chimera, sono qua. Esatto. E poi mi è arrivata la chiamata. Che mi aveva detto che avevo vinto, e ho iniziato a lavorare a questo mio progetto, che è questa performance che ho intrapreso da sola, per scelta. Non era iniziato così, è un progetto molto, molto personale, che parte da un'autobiografia, quindi comunque da una storia che è successa a me, da una cosa che mi è successa. E avevo bisogno in un certo senso di utilizzare l'arte, il mio mestiere per spiegarmela e per condividerla, e quindi ho iniziato a lavorare a questo Notturno 264 e adesso forse è diventata una cosa che potrebbe essere condivisa. Speriamo presto. Speriamo. Anche a Milano. Speriamo, vediamo, il futuro ci dirà. E infatti sì, è particolare il fatto che io ti abbia proposto di fare una puntata radio insieme prima di decidere il tema di quest'anno. Poi ho iniziato a concentrarmi abbastanza sull'idea della comunità e nel proportela, nel parlare tra di noi, ci siamo resi conto quanto il tuo fosse un lavoro molto orientato all'introspezione piuttosto che all'azione. E quindi c'è anche un po' questa dicotomia, ma è una dicotomia che ci serve, perché come si diceva prima, questo noi non può esistere senza un io che viene creato dal noi ma che ogni tanto ha bisogno, come tu hai detto che per scelta hai deciso di lavorare da sola a questo progetto, quindi questo io che ha bisogno di ritrovarsi, di ricostruirsi per poi riuscire nel mondo. Sì, allora diciamo che per quanto riguarda questo progetto è stato molto difficile, soprattutto all'inizio. Io non volevo lavorare da sola. C'era un mio carissimo amico che era coinvolto nel progetto, Tommaso Giacomin, e sapevo benissimo che il bando in qualche modo è un bando che comunque supporta con tantissimi tutor artistici, persone straordinarie. Quando mi sono ritrovata appunto nella stanza con me stessa, a tu per tu, è stato lì che ho capito che questo discorso fra me e me dovevo affrontarlo prima o poi. E questa cosa mi ha aiutato moltissimo, soprattutto a capire con che linguaggio io dovevo parlare con me stessa. Quando si comincia a creare un progetto, quando si ha un'idea e quest'idea in qualche modo deve diventare materia, no? Deve diventare pratica, è difficile spiegare agli altri che cos'è quest'idea. E a me serviva spiegarlo a me stessa, spiegare con quali parole, capire con quali parole poter spiegare a me stessa qual era la mia idea. Mm-hmm. Però non potevo ho capito che non potevo farlo se c'era un tramite. Il tramite doveva essere il mio corpo, doveva essere la conversazione che io dovevo avere con me stessa. A tu per tu. A tu per tu. E ci sono stati tantissimi momenti un po' allucinanti, devo dire, perché mi sono ritrovata in questi posti in mezzo al nulla più totale, dove passavo ovviamente ore. Mi svegliavo la mattina alle 9, andavo in sala alle 10 e facevo le mie 8-9 ore di prove, in cui però io ero là, l'occhio esterno, io ero la regista, io ero la performer, io ero l'attrice, quindi c'era un dialogo continuo fra la me attrice che non voleva fare una cosa e la me creatrice che diceva no, la devi fare perché questa cosa potrebbe funzionare, e io lì no, non la voglio fare, e quindi 8 ore così in sala da sola un po'. Quindi già questo con se stessi diventa già un... Infatti una tu per tu che è uno sdoppiamento, un'attrice e una performer che dialogano. Sì, sì, sì. Una molteplicità anche dentro di te. Sì, assolutamente. Poi è stato, la cosa più difficile forse è stato dover mettere di lato il giudizio che io avevo, il giudizio costante che abbiamo tutti, però in questo caso ancora di più. Io sono una persona estremamente giudicante nei confronti del mondo, ma non in senso negativo, nel senso che purtroppo io ho un punto di vista sempre molto molto presente, e nei miei confronti, soprattutto nei confronti dell'arte che stavo cercando di fare, arte chiamiamola così, vabbè, delle cose che stavo cercando di fare, come vuoi chiamarla. Il giudizio nei miei confronti era severissimo, e quindi cercare di avere una morbidezza e una tenerezza, questo avrei potuto farlo soltanto da sola. Mm-hmm. Va bene, entrerei nel merito di Notturno 264. Cosa ci vuoi raccontare, da dove arriva, come hai studiato, come è stato il processo? Mi tolgo il giubbotto. Allora, Notturno 264 parte da una serie di sfortunati eventi, li chiamerei. Appunto, come dicevo, parte da una storia autobiografica. Io ho perso mio padre a 13 anni e questa cosa mi ha ovviamente cambiato la vita, dico una banalità. Però diciamo che io facevo già teatro e avevo già capito che quello fosse il mio modo e il mio mezzo per affrontare il mondo, per affrontare la guerra, no? Tutto. E quindi a un certo punto, quando stavo a Londra, stavo studiando, mi era venuta, avevo sentito il bisogno di fare una cosa mia. E fare questa cosa mia per me significava partire per forza da qualcosa che conoscevo profondamente, che erano le mie sensazioni nei confronti di quello che mi circondava, che io avevo sempre vissuto attraverso questa enorme perdita che io ho subito. E quindi ho iniziato a lavorare, a pensare, a sognare tantissimo. I miei sogni hanno cominciato a essere sempre più pervasi da questo mondo di personaggi, di persone che disegnavo. E anche mio padre faceva sempre questo disegno quando lasciava i messaggi di questo uomo con il cappello, no? Lui lasciava tipo una nota, vado a comprare le sigarette, e poi disegnava sì, questo omino col cappello. Quindi io cominciai a disegnare, a fare tutti questi disegnini e mi resi conto che avevo creato una popolazione di tutte queste persone che non esistevano, no? E quindi mi sono detto, oddio, allora forse queste persone mi possono fare compagnia, no? Però dove? A teatro, nell'unico luogo in cui tutto può succedere. E quindi ho iniziato, diciamo che l'idea di Notturno 264 parte da questo, poi ho avuto 2 anni di processi in cui è cambiato tanto, il nome viene da una storia vera di questo Randy Gardner, che, questo ragazzo americano che nel 1954, credo, vinse il Guinness World Record per aver scelto di non dormire per 264 ore, cioè 11 giorni. E quindi poi da lì è arrivata la storia di questo personaggio, di questa donna, di questa ragazza, di questo essere che dopo la morte del padre nel sonno decide di non dormire per 11 giorni. Quindi questa è la trama. Con un'ambientazione molto, anche di molto eterea, dalle immagini che ho visto, cioè una trama che però è più una trama per sensazioni. Cioè, sì. La trama in sé è appunto questa che ci hai raccontato, ma poi c'è tutti i mondi interiori lì dentro. Sì, allora diciamo che la trama nel progetto che poi ho sviluppato in quello che poi è diventato Notturno 264 viene eliminata. Non si percepisce, non mi è mai interessato raccontare questa storia. La storia della mia vita e della perdita di mio padre ne parlo con le mie amiche quando sono al bar. Diciamo che farla a teatro non mi interessava, non volevo che diventasse la mia storia. Mm-hmm. Mi interessava molto di più che fosse qualcosa che potesse essere toccata anche da chi non aveva mai vissuto quello che avevo vissuto io, che potesse essere, dico un'altra banalità, una cosa universale, che però per me è molto importante. E quindi studiandomi ho capito che il linguaggio con il quale dovevo affrontare questa cosa era un linguaggio molto distaccato e che quello che dovevo fare era semplicemente avere il coraggio di attraversare questa condizione. Mm-hmm. Mm-hmm. E quindi diciamo che la performance a cui sono arrivata io la definisco un attraversamento che percorre una superficie densa di una condizione profondamente esasperata che non può essere cambiata, però ci trovo molto coraggio in questo. Ed è stato, ci è voluto molto coraggio da parte mia come essere umano e anche da parte mia come performer. Credo molto nel mettersi in gioco, nel mettersi in gioco appieno e nel fare una cosa per una necessità. E quindi la sfida di questo progetto era quella, era darsi, attraversare. Mm-hmm. E in questo attraversamento un dialogo tu per tu è diventato anche un dialogo con ispirazioni, con fonti, con punti di riferimento che t'hanno guidata. Sì. Quali sono state? Chi ha incontrato? ho incontrato, a parte tutti i vari mostri che incontravo, ho deciso di essere anche molto ligia e severa con le mie ispirazioni. Quando ho iniziato a ricercare, ho studiato tantissimo per questo progetto. Durante i 5 mesi di residenza veramente mi sono sentita come se fossi a scuola. Però all'inizio avevo tantissime ispirazioni, continuavo a dire oddio, posso prendere un po' da questo, un po' da questo, un po' da questo, e poi ho deciso invece che dovevo canalizzare le mie energie soltanto nei confronti delle ispirazioni che sapevo per certo che potevano portarmi in quel punto dove volevo arrivare io. Quindi diciamo le due grandi ispirazioni sono Francis Bacon e Samuel Beckett. Poi una grande importanza l'hanno avuto le letture che ho fatto di Emanuele Severino e di Carlo Rovelli. Però diciamo che quello che ho fatto è stato creare un Frankenstein e prendere un po' di là, un po' di là e un po' di là, accorgendomi però che tutti quanti parlavano della stessa cosa in maniera diversa, mm-hmm. utilizzando il loro mezzo. Mm-hmm. Che per Francis Bacon era la pittura, per Beckett erano le parole, per Severino era la filosofia, Rovelli la fisica, però comunque la ricerca era più o meno quella. Mm-hmm. E questo grandissimo vuoto. Beh, partirei da Beckett, che in qualche modo mi hai regalato anche a me, perché io da ignorante conoscevo Aspettando Godot e Finale di partita sostanzialmente, per poi scoprire lavorando a questa puntata che Beckett ha scritto dei radioplay pensati apposta per la radio, che sono stati, mi hai raccontato, l'ispirazione principale. E quindi anche qua trovo interessante il fatto che in un dialogo a tu per tu arriva un medium che è il medium forse un po' più paradossale, perché nel momento in cui inizi il programma radio sei davvero, entri in questo mondo teatro, in questa bolla in cui puoi essere a tu per tu, ma c'è sempre qualche persona nell'iperspazio tecnologico o radiofonico che ti ascolta. Allora, cosa dire di Beckett? Per me è stata una grande ispirazione a livello di scrittura. Ovviamente io avevo scritto tantissime cose, pagine, e il modo in cui avevo scritto è stato molto ispirato dalla scrittura di Beckett, proprio a livello banalmente di punteggiatura. Beckett utilizza un modo di scrivere che, in cui praticamente la punteggiatura è quasi del tutto assente, e questo, come dicevamo la volta scorsa, crea un ritmo che è parola chiave della mia ricerca, un ritmo che è incredibile e che non viene dato assolutamente dal significato che può avere un testo, le parole, ma che è soltanto e puramente una sensazione. Questa è una cosa tipica di Beckett che viene fuori soprattutto nei radiodrammi come Embers, come Lo Spopolatore, come Notai, ce ne sono veramente tanti. E credo che la ricerca di Beckett e la scrittura di Beckett venga fuori in maniera, nella sua interezza, nei radiodrammi, perché sono il luogo in cui non è possibile rappresentare nulla di questo mm-hmm. mondo ai confini che lui immaginava e che lui sentiva. L'unico mezzo che aveva erano le parole, che non riportavano a un'immaginazione, perché i mondi che costruisce Beckett raramente portano a un immaginario, portano sempre a una sensazione, che è una cosa viscerale. Inizierei, proprio rimanendo su questa sensazione, ad ascoltare un estratto di Notai, recitato da, stavo andando a cercarlo perché non me lo sono segnato, ci ricordi il nome dell'attrice? Non te ricordi neanche tu? Allora andiamo a cercarlo perché è abbastanza iconica. E, è in inglese, è difficilissimo da capire per chi non è madrelingua, ma è proprio qua la parte interessante, il riconoscere che quello che ci sta comunicando va al di là del significato, ma sta proprio nel ritmo e nelle sensazioni della lettura, in questo caso di Billy Whitelaw. Trovata. vanished, thin air. No sooner buttoned up his breeches. She similarly, 8 months later, almost at a tick. So no love, spared that. No love such as normally vented at the speechless infant in the home. No, out into this world, tiny little thing before his time in a godfor, what? Girl, yes, tiny little girl, into this, out into this, before her time, godforsaken hole, called. No matter, parents unknown, unheard of, he having vanished, thin air, no sooner buttoned up his breeches, she similarly, 8 months later, almost at the tick, so no love, spared that, no love such as normally vented on the speechless infant in the home, no, nor indeed for that matter, any of any kind, no love of any kind, at any subsequent stage, so, typical affair, nothing of any note till coming up to 60 when, what, 70, God, coming up to 70 when, wandering in a field, looking aimlessly for cowslips to make a ball, a few steps then stop, stare into space, then on, a few more, stop and stare again, so on, drifting around, when suddenly, gradually, all went out, all that early April morning light, and she found herself in the... What? Who? No! She! Found herself in the dark, and if not exactly insentient, for she could still hear the buzzing, so-called, in the ears, and a ray of light came and went, such as the moon might cast, drifting in and out of cloud, but so dulled, feeling so dulled, she did not know what position she was in. Imagine what position she was in, whether standing or sitting, but the brain, what? Kneeling, yes, whether standing or sitting or kneeling, but the brain, what? Lying, yes, whether standing or sitting or kneeling or lying, but the brain still in a way, for her first thought was, oh, long after, sudden flash. Questo è l'unico di Radio Play che è stato anche immaginato con una rappresentazione scenica, in cui ancora una volta però abbiamo questa sensazione di vuoto, perché l'unica cosa visibile nella rappresentazione in cui è tutto buio è la bocca della performer che viene illuminata. Sì. E il play va a raccontare degli episodi della vita di questa donna, probabilmente dopo che è morta, dalla prospettiva della bocca. Della sua voce. È straordinario. Però l'unica cosa che, cioè la prima cosa che viene fuori da un ascolto del genere è una profonda angoscia, no? Mm-hmm. Cioè, qualsiasi tipo di ricerca di significato in quello che dice si perde, non stai a chiederti il motivo per il quale, che cosa sta dicendo. Cioè, mm-hmm, ti arriva subito una sensazione di angoscia. Mm-hmm. E questo è dato soltanto dal ritmo, dal modo in cui è scritto e dal modo in cui è letto. Mm-hmm. No, volevo stavo leggendo oggi mentre cercavo anche così. Andrea Camilleri ha scritto una piccola apertura riguardo a Ceneri, che l'altro radiodramma che leggeremo dopo. E diceva riguardo al fatto che non c'erano appunto questa sensazione di tutti i personaggi di Beckett sono un po' logorroici, e quindi Camilleri scrive: perché dunque questa logorrea? Da una parte per darsi l'impressione di esistere, e dall'altra per potersi consentire un minimo di evasione fantastica. Lo trovo, cioè, secondo me è straordinaria questa cosa, cioè il fatto di sentirsi parlare è una prova del fatto che esistiamo. Senza neanche, mettendo appunto in secondo piano quello che andiamo a dire. Sì, perché sì, nel momento in cui stiamo parlando ci stiamo buttando fuori e in qualche modo stiamo mettendo anche in secondo piano l'altra persona che ascolta. Vero. Quindi è un con se stessi a tu per tu. Oggi è la puntata del titolo che ha funzionato, di solito. Del titolo che ha funzionato, ma dicevo anche del rinnegare quello di cui abbiamo parlato in tutte le puntate, quindi di ascoltarsi a vicenda, ma c'è anche questa parte, non si può parlare di... autoascoltarsi. Di ascolto senza aver parlato, cioè riconoscere anche l'altro polo. Sì, assolutamente. Va bene, e quindi ti chiederei, abbiamo preparato una lettura da Ceneri, altro Radio Play, in questo caso in italiano, per cui si perde un po' l'idea del ritmo di cui ci parlavi, ma diventa più comprensibile. Vuoi anche farci un'introduzione su Ceneri, sull'ispirazione che ha avuto per te? Sì, faccio una premessa veramente breve riguardo a questa cosa. È una lettura che ho trovato per caso. Un giorno stavo tornando a casa, sono tornata a casa in casa mia in Sicilia. E, apro la porta e c'è la mia madre nel divano. E, quando sono entrata, lei era al buio. È una scena un po' macabra, in realtà non lo è stata per niente. Lei era in penombra, sdraiata sul divano, e stava ascoltando allo stereo questo brano incredibile, incredibilmente triste, così stirata. Sono andata e ho detto: mamma, ma perché? Ma non, è tristissimo. Lei mi ha guardato e mi ha detto: lo so, ma non importa, non vedi quanto è bello? E questo era il brano che metteremo sotto questo testo, che è il brano di Anya Lechner e Zabropoulos. E poi da lì, da questo brano, io ho detto: ok, a me è sempre piaciuto molto leggere a voce alta. Una volta così ho pensato di leggere a voce alta questo testo di Beckett che parla di silenzio e di solitudine. E ho pensato di leggerlo con questo brano sotto. E per me è semplicemente come sperare di farvi entrare un po' in un mio pomeriggio annoiato in casa mentre cercavo di capire come è possibile scrivere così bene, che cosa significa sentirsi soli. Allora iniziamo. Chi è adesso accanto a me? Un vecchio. Un vecchio cieco e insensato. Mio padre. Di ritorno dai morti per stare con me. Come se non fosse morto. Nah. Solo di ritorno dai morti per stare con me in questo luogo strano. Oggi è calmo, ma spesso lo sento su in casa o quando sto per la strada e allora mi metto subito a parlare, o giusto per non sentirlo. Nessuno vi fa caso. Una volta andai in Svizzera per allontanarmi da quella maledizione. Tutto il tempo che rimasi non mi fermai un momento. Non che avessi bisogno di qualcuno, solo di me, delle mie storie. Ce n'era una molto lunga su un vecchio compagno, un certo Bolton. Ma non la finii mai, non ne ho mai finita nessuna, non ho mai finito niente, tutto non ha fatto che continuare all'infinito. Bolton. Bolton! Là, davanti al fuoco. Davanti al fuoco con tutte le imposte, no, tende, con tutte le tende tirate, la luce. Ma che luce, solo la luce del fuoco? E lui seduto lì, no, in piedi là sul tappeto al buio, davanti al fuoco, con le braccia sulla pietra del camino, la testa sulle braccia, là in piedi al buio, in attesa, davanti al fuoco, nella sua vecchia vestaglia rossa. In casa nessun rumore di nessun genere, tranne quello del fuoco. Eccolo là. In piedi nella sua vecchia vestaglia rossa che potrebbe andare a fuoco da un momento all'altro come da bambino, ma no, quello era il suo pigiama. Eccolo là, in piedi, in attesa al buio. Nessuna luce tranne la luce del fuoco e nessun rumore di nessun genere, solo il fuoco e un vecchio in grande angoscia. Suonano quindi alla porta e lui va alla finestra, scosta le tende e vede là fuori un bel tipo di vecchio robusto, ben piantato, splende a notte invernale, neve dappertutto, freddo, tagliente, mondo bianco, rami di cedro curvi sotto il peso e poi, mentre alza il braccio per suonare ancora, lo riconosce. Holloway! Sì. Riconosce Holloway e scende ad aprire. Immobile fuori, non un rumore, un ramo che geme o la catena del cane, giusto se rimane lì in ascolto. Mondo bianco, Holloway con la sua borsa nera, non un rumore, freddo, tagliente, la luna piena, piccola e bianca, la traccia obliqua delle golosce di Holloway, Vega verdissima nella costellazione della lira. Vega verdissima. E poi sulla soglia, anzi, nella stanza, nel centro della stanza, e poi nel centro della stanza la conversazione seguente. Holloway, è già mezzanotte passata, mio caro Bolton, vuoi essere così gentile? Non va oltre, Bolton, per favore. Per favore. E poi silenzio di tomba, non un rumore, solo di fuoco, ora si abbassa, è già tutto di ceneri. Holloway presso il camino che cerca di farsi arrostire le natiche. Bolton, dov'è Bolton? Niente luce, solo il fuoco. Bolton è alla finestra, la schiena alle tende che tiene scostate con la mano per guardar fuori. Mondo bianco, perfino la guglia, bianca fino alla Puglia. Cosa straordinaria. In casa mondo bianco, non un rumore, solo il fuoco, senza fiamma ora. Ceneri. Ceneri che si spengono. E il loro suono stremato, sfuggente, come furtivo, agghiacciante. Holloway presso il camino, bel tipo di vecchio, perlomeno 1,80, corpulento, gambe divaricate, mani dietro la schiena che sollevano le falde del suo vecchio pastrano. E Bolton alla finestra, alta figura di vecchio nella sua vecchia vestaglia rossa, con la schiena alle tende, la mano tesa che allarga l'apertura per guardare fuori, mondo bianco, angoscia, non un suono tranne che di ceneri. Il suono di un calore che si spegne, che muore, ceneri. Holloway, Bolton, vecchia angoscia, grande angoscia, mondo bianco, non un rumore. Ascolta. Chiudi gli occhi e ascolta. Ma che cosa credevi che fosse? A drip. A drip. Ancora. Basta! Grazie. Prego. Potremmo fermarci qua con questa forza. Ma invece ti chiedo... di raccontarci... Cosa dire? Questo attraversamento, come va avanti? Chi altri ha, da chi ha questi ritmi con cui hai attraversato, queste sensazioni, quali altri compagni hanno trovato? Ma la cosa poi divertente di tutto ciò è che alla fine di tutte queste infinite letture, di tutti questi ritmi, praticamente nella performance non è rimasto quasi nulla, perché è quasi del tutto silenziosa. Ed è stato molto difficile introdurre la parola. Paradossalmente, poi alla fine la parola è difficile parlare. Mm-hmm. Difficile parlare, dire le cose giuste. Solo Beckett forse ci riusciva. Mm-hmm. Io ancora non ci riesco. E quindi riuscire a trovare un modo nel quale poter esprimere e mettere insieme, perché la performance che poi ho costruito è molto visiva, c'è una convivenza di linguaggi molto importante, c'è il disegno, quindi la parte visiva, c'è una parte più materiale, questa struttura di fil di ferro che ho costruito, c'è il mio corpo, quindi una parte materica proprio, la più volgare, come definirebbero alcuni, che è il mio corpo nudo, e poi c'è il suono, che è molto importante. Abbiamo fatto tutta una ricerca con Nicola Ratti, che è stato uno dei tutor artistici di progetto e anche un eccezionale sound designer e musicista che mi ha aiutata da quel punto di vista. Cioè, ho avuto il supporto di Daria De Florian, un'altra tutor artistica, che appunto mi ha aiutato con la drammaturgia, con l'utilizzo della parola, di come utilizzare una parola che è molto quotidiana. Ho voluto costruire questa convivenza. Questa convivenza di elementi per costruire il mio ritmo di questa performance, e da questo ho preso tanto ispirazione, da Bacon e dal suo concetto di convivenza di elementi. Stavo pensando oggi in doccia a come definire che cos'è per me il ritmo, e mi piace pensare che il ritmo per me sia quell'insieme di elementi che, messi insieme secondo un determinato ordine o accostati in un determinato tempo, creano una sensazione materica, una sensazione corporea. E questo lo può fare la musica, come lo possono fare le parole, lo abbiamo visto in Beckett, e lo può fare anche, lo possono fare anche le immagini. Per esempio in Bacon, è quello di cui parla Bacon, è proprio questo, creare un ritmo a livello sensitivo. e questo è dato dall'unione di elementi diversi che per lui erano la costruzione del trittico, quindi in un quadro trovi sempre la struttura materiale, la figura e il contorno, e questi elementi, in base a come questi elementi affluiscono l'uno con l'altro e in base a come sfocano l'uno nell'altro, ciò crea il movimento, il ritmo, che è una cosa che senti a livello corporeo. Infatti quando guardi un quadro di Bacon ti senti muovere. Mm-hmm. Ed è quello che ho cercato di fare. Ovviamente non ci sono riuscita come ci è riuscito Bacon, però è quello da cui sono partita nella costruzione della mia performance. Sì. Beh, qui torniamo anche a uno dei temi di cui abbiamo parlato spesso nelle puntate radio, perché spesso abbiamo parlato dell'ascolto come modalità di accedere al mondo, a un mondo sensibile, a un mondo corporeo, attraverso le sensazioni, piuttosto che a una razionalità con cui guardare il mondo, ma di come questo ascolto in realtà ci ricorda che fa sempre parte di una sinestesia di sensi, per cui nel momento in cui ascoltiamo stiamo anche guardando con il nostro corpo e con la moltitudine di sensi che va a formare il nostro corpo, entriamo in questo ritmo sinestetico, potremmo dire. Sì, credo sia una cosa straordinaria. È difficilissimo da capire, perché il ritmo non è velocità, il ritmo può essere anche totalmente immobile. Quello è ritmo. Arrivare a capire che c'è un'unione, un'armonia anche in questa profonda disarmonia, per esempio in questa violenza incredibile che si vede in Beckett, ovviamente in Bacon, questa volontà di rappresentare l'orrore in maniera armonica, no? È quello che quando veramente si riesce a trovare quel ritmo, mm-hmm, il ritmo puro in quel contesto lì, alla ricerca di quell'orrore, che però non è una ricerca dell'orrore, anzi è una volontà di nascondersi all'orrore. E ovviamente dal mio punto di vista, stavo lavorando a una cosa che parlava di un grandissimo orrore, che la morte, forse, perché poi Severino entra e dice no, perché la morte non è questo grande orrore. Mi piace tantissimo questa frase di Severino che mi ha risollevata e mi ha dato un altro modo di vedere anche questa performance, questo spettacolo, perché lui diceva che la morte era la disapparizione degli eterni. E io la trovo una cosa incredibile, perché vuol dire che chi è stato non potrà mai smettere di essere stato. Un ente, una volta che è stato, non smetterà mai di essere stato. E quindi questo conferisce alla morte toglie tantissima importanza, no? E dona invece all'essere una libertà assoluta. E quindi ho ritrovato tantissima libertà nel voler rappresentare questa e voler attraversare questa esperienza morte in maniera eterna, in un certo senso, no? In maniera pura. E qui arriva Carlo Rovelli e la ricerca sui buchi neri, e quando parla di questa della stella cadente che sprofonda dentro se stessa all'infinito, per arrivare in quel punto in cui è tutto perfetto, in cui è tutto immobile, ma è un essere immobile che è tranquillo, un mondo chiuso che è anche il più illimitato. Tutte queste sono state le mie ispirazioni, le cose che io mi ripetevo in questo dialogo con me stessa, tu per tu, mentre cercavo di attraversare, di concepire quale fosse il mio punto di arrivo per questa opera / operazione. Arrivare a un non risolvere, no? È venuta una volta, mentre facevo le prove, venne questa addetta e continuava a chiedermi: sì, ma tu come lo vuoi risolvere? Come la risolvi? Io avevo tutti i miei appunti, i miei disegni, le mie robe. Come lo risolvi? E poi io alla fine ho capito che non lo volevo, cioè io non lo volevo risolvere. Anche perché prima ci hai parlato di un punto chiuso che è anche illimitato. Un mondo giusto? Chiuso che è anche il più illimitato, sì. E che quindi non ha una risoluzione. È un continuo attraversamento del mondo, sì. Anche circolare, ritrovarsi, riattraversarsi, continuare a riviversi, sì. E a essere sempre stati. A essere sempre stati, perché poi alla fine si cambia sempre comunque. Cioè quello che ho capito è che ovviamente una volta che si parte da un punto e si fa un giro circolare, comunque durante quel tragitto circolare qualcosa cambia. Anche se poi si ritorna da dove si è partiti, però qualcosa cambia e la cosa straordinaria è questa, e va bene anche tornare nello stesso punto, mm-hmm. Che è molto becchettiano ancora una volta questo ritorno con tutte le parole che ci siamo dette nel frattempo e siamo ancora lì in sì. modo diverso, sempre in modo diverso, sì, assolutamente. Beh, farei partire una traccia bellissima che mi hai suggerito parlando proprio di questi attraversamenti, di questa smaterializzazione, ma allo stesso tempo arrivare, come dicevo prima, di un tuo sguardo delicato ma pungente, arrivare in quel punto pungente che però dentro ha di tutto. E oggi anche devo ammettere la puntata dei noi difficilissimi da presentare. Questa traccia si chiama Sadness Infinite America puntini puntini puntini shit ed è di l'artista principale, io non conoscevo, si chiama trattino trattino trattino trattino basso trattino basso trattino basso trattino trattino trattino basso trattino basso trattino trattino basso trattino basso, insieme a, adesso un po' più facile, Karen NG Seth Graham More Is. Thank you. much. Bene, mi viene, cioè, le mie ultime domande dopo questo attraversamento e questo attraversamento di un tu per tu più che necessario, e questo scoprirsi attraverso il percorso creativo e scoprire i propri personaggi, che quindi possono anche essere appunto non un io ma il personaggio che abita da qualche parte. Cosa vuol dire durante l'attraversamento anche incontrare poi un pubblico, quindi ritornare a un noi? Per me è stato, ero pronta a farlo perché eravamo in due, non so come dirti. Non ero più sola. Ed è stato importante perché sapevo come difendermi. Quando si incontra un pubblico e quando si è... Stare su un palcoscenico è una cosa, è un atto di violenza. Bisogna partire da questo presupposto. In un certo senso, a cui io decido di sottopormi, non è imposto da nessuno, però rimane un atto di violenza in cui il tuo essere in quel momento è giudicato ed è guardato da altri che non ti conoscono, che non sanno nulla di te, della tua storia, delle motivazioni per le quali tu stai facendo quello che stai facendo, e dunque bisogna arrivare con una sorta di armatura. Per me in questo caso specifico era importante avere un'armatura a doppio strato perché era una storia, perché era una cosa mia, era la prima cosa mia che mi definiva in un certo senso come artista, no? Non era come fare una cosa di un altro. E all'inizio per me il decidere di volerla fare da sola è stato anche... il vedere se avevo il coraggio di prendermi la responsabilità di mettere veramente le mie decisioni prima di quelle degli altri e di venire a termini poi ovviamente con il confronto col pubblico, che è fondamentale quando facciamo quello che facciamo, altrimenti potremmo anche non farlo. Ripeto, se non c'è il confronto con anche una persona, è come se questa cosa che faccio non esiste. Quindi è stato bello, è stata dura all'inizio anche avere il coraggio di dire non ho bisogno di sentire il tuo, quel tipo di giudizio, non mi serve. Non perché non mi interessava ascoltare un punto di vista di un altro, ma perché è giusto anche capire in che momento prendere i consigli, come prendere i consigli, come darli, come dare i giudizi. Credo che dovremmo... è molto delicata la questione entrare in contatto col pubblico. È un momento ovviamente imprescindibile che però deve avvenire secondo me con un punto di partenza che viene da una responsabilità e da un sapere quello che si sta presentando, e io credo che in quel momento ero consapevole ed ero sicura di quello che stavo presentando, e questo mi ha dato sicuramente una consapevolezza maggiore, ecco. Mi piacerebbe, adesso che siamo tornati appunto a uno stare anche con l'altro, con lo sguardo dell'altro, che è una violenza ma è anche quello che poi giustifica e dà senso a tutto il resto in qualche modo, riprendere una frase dentro Ceneri che ho letto e ascoltato grazie a te in questi giorni. In un momento in cui, come dicevamo prima, comunque è un testo che parla di solitudine, e in questo momento il personaggio principale, la moglie, non si capisce se e come possono aiutarsi a vicenda nello stare insieme, o se sarebbe meglio separarsi. E lui è specialmente molto confuso, ma c'è questa frase in cui le dice: keep on, keep on, keep it going, Ada, every syllable is a second gained. Quindi vai avanti, Ada, ogni sillaba è un secondo guadagnato. E la trovo una perla lì dentro, in questa solitudine, però sentire che non ogni parola, quindi neanche ritorniamo al significato, ma proprio la sensazione del sono qua e siamo qua, ci stiamo ascoltando, anche in quella solitudine ogni tanto è qualcosa a cui aggrapparsi. Sì, che dire, vabbè, su Beckett ne potremmo dire veramente 10.000 di citazioni, eccetera. Però la condizione di solitudine in generale, a proposito di solitudine, Pasolini diceva una cosa straordinaria sulla solitudine. Diceva: la mia indipendenza, che è la mia forza, non può fare a meno della solitudine, che è la mia debolezza. Mm-hmm. Quindi ovviamente sono due cose che non possono prescindere l'una dall'altra, e che però in alcuni contesti sono entrambe fondamentali. Mm-hmm. Anch'io sono convinta che l'indipendenza non può prescindere dalla solitudine, e che la solitudine è veramente una cosa tremenda. Tremenda. Tremenda. A me non piace stare da sola. Non è vero. Neanche a me, è proprio per questo che ho iniziato a fare un programma radio, sostanzialmente, a unire persone con cui farlo. Va bene. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo. Non so se hai qualche commento, qualche racconto finale. No, sono molto contenta di essere stata qui con te stasera, e spero che, non so, che chiunque, se c'è qualcuno che sta ascoltando, immagino che stia sorridendo in questo momento. E basta. Credo di sì. Ok. Va bene. Allora abbiamo gli ultimi 5 minuti in cui possiamo lasciare spazio alla musica. E a due brani, un brano che ho dedicato io a quello che mi hai raccontato di questo lavoro e quello che ho potuto vedere, che è Tonadas d'Ordegno di Soledad Bravo, e poi un brano finale per finire anche con un po' più di allegria, che ce la meritiamo. Non siamo sempre così depressi. Aspettando Notturno 264 a Milano, quando si spera arriverà nella nostra città. Ciao. Ciao. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, clavelito, clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste si se iba el alma mía, mariposa, mariposa. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara donde se lava la Virgen los piecitos. to clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del